la ragione, la giustizia va spandita, va la legge pervertita e sorregge l'impietà. Va la legge pervertita e sorregge l'impietà e sorregge l'impietà. Sorregge l'impietà, così fa. Così fa, così fa. Turba in sangue.